cosa ritroviamo all'alba dell'8 gennaio 2024? Un elemento che pensavamo di aver lasciato nel secolo scorso, non nell'anno scorso, ma nel secolo scorso, cioè esattamente il discorso legato all'io. Che cos'è l'io? Che cosa non è l'io? La crudelissima neoguardia ci impedisce di usarlo. Una notizia bomba, breaking news. All'alba del 2024 vi posso annunciare che già da non so quanti decenni in realtà voi potete usare l'io. Coraggio, usate l'io, non soltanto quello grammaticale, ma anche tutti gli altri i che vi passano per la testa. L'io memoriale, l'io geografico, l'io idraulico, l'io elettroforesico, tutti gli i immaginabili. In realtà, almeno stando a un'idea che del tutto inutilmente ho cercato di portare avanti in questi ultimi 10-15 anni, il problema dell'io non è un problema grammaticale, memoriale, documentale o quale altro ale possiamo immaginare, ma è un problema di preprogrammazione della risposta del lettore. Quando c'è questa preprogrammazione, vi dovete aspettare comunque che ci sia un lettore che non si fa programmare e che vi dice: ma veramente questo che mi stai dicendo non è interessante, oppure lo conosco già, l'ho già sentito. Ok? Per il resto potete usare, se li usate bene, tutti i pronomi che volete. Ce ne sono tanti. Ce ne sono anche di stranieri. Si può usare il je, si può usare il oui. Sbizzarritevi. Non abbiate paura. E soprattutto non lasciatevi intimorire dalla neoavanguardia. Coraggio, potete farcela.